leva del suo cognome. Ogni lettera, ogni suo iniziale, ogni virgola della sua pelle. Meglio stare solo a discutere con uno specchio, a tracciare un'espressione allegra con la punta del suo rossetto, tra le lande spettinate di passioni e tempi e diradate, col vapore ci disegno un cerchio e ci metto dentro il viso, poi cancello il mio riflesso, la memoria sotto al rubinetto, tanto presto e l'ora a te risciacquo, giusto il tempo di formare un gorgo e affidarsi al lavandino, spegnere le sue luci a tutti i fari, tanto i vuoti dei suoi castelli di miei duri sono tutti uguali, accecando le risposte con la punta delle stelle, che già sento le sue ombre divorare la mia pelle. Respirare giusto un filo, duro come il cemento, come un quadro di profilo, senza più pensare niente, imbiancare i muri della mente, un arredo sobrio minimale, senza fronzoli e più tormenti, permettendo alle emozioni di mutare in mute stanze e divani di vanesse. Il suo incedere nel nessun mare ed il prologo in gran finale.